l'Ixacuto. 2010, avete sentito tante bolle, adesso ve ne raccontiamo un paio. Bolle di merda, facce di sapone, castelli di sabbia, gambe corte di persone. Ma io non ti conosco, non parlare del mio nome, conosco le persone che mi mandano in prigione. Ieri ti ho sentito mentre raccontavi storie così forti che nel medioevo neanche canta storie. Più strafatti potevano parlare di certe stronzate. Ora ne ho da dire un paio, io state zitti, ascoltate. Amore mio, ti lascio, voglio stare solo. A bolla troppo grande, dimmi te chi cazzo se la ingoia. Puttana, sei troppo brutta e che ieri tirati. Ormai fissi incazzati, io messo ci sto ma ci bucati. A te che fai il figo perché c'è due canne dentro le scarpe. Se ti acchiappa la pula canti tipo Nick Carter. Shumi che riprende a correre per la Mercedes. Io che mi faccio Gianna, mai cosa entro la tua Mercedes. Vivi dentro una bolla con una bolla sopra le spalle. Vivi in un mondo di farfalle. Quanto è bello dovuto subire e poi sopportare. Tante troppe belle facce, unico scopo inculare. Bolle di merda, facce di sapone, castelli di sabbia, gambe corte di persone. Ma io non ti conosco, non parlare del mio nome. Conosco le persone che mi mandano in prigione. Bolle di merda, facce di sapone, castelli di sabbia, gambe corte di persone. Ma io non ti conosco, non parlare del mio nome. Conosco le persone che mi mandano in prigione. Già ne ho sentito di cazzate allucinanti. Personaggi convinti di essere davvero importanti. Bugiardi cronici sicuro li hai sentiti. Ma non è mai sentito che si sono pentiti. E so che venderesti i tuoi amici per un cazzo. E te lo dico nel vero senso della parola. Sfido chiunque a trovare qualcuno più falso. Tanto una persona così è destinata a stare sola. È inutile inventare storie per farsi più fighi, più forti, più belli, intelligenti o divi. Non vedrò mai le vostre facce in TV, non vedrò mai i vostri video su MTV. E mi dicono che sei amico di lei, ma non credo in questo tipo di amicizia, sai. E non mollo, ti controllo fino al tuo collasso, aspettando solamente che tu faccia il passo falso. Bolle di merda, facce di sapone, castelli di sabbia, gambe corte di persone. Ma io non ti conosco, non parlare del mio nome. Conosco le persone che mi mandano in prigione. Bolle di merda, facce di sapone, castelli di sabbia, a gambe corte di persone. Ma io non ti conosco, non parlare del mio nome. Conosco le persone che mi mandano in prigione.